Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di alici e di acciughe. Bene, sapete, ormai molti sanno che c'è questo, chiamiamolo così, questa gara di, sulle ricette dei radioascoltatori. Il tema era l'acciuga e quindi abbiamo esaminato ben 300 ricette che ci sono arrivate, e devo dire che oggi avremo due giudici molto ma molto particolari, perché a loro volta sono stati giudicati. Ma ora vi lascio un po' nel thrilling, perché prima vi do il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, innanzitutto lancio anche magari una gara tra i radioascoltatori che in questo momento ci stanno ad ascoltare. Ma che differenza passa tra l'acciuga e le alici? Sono la stessa cosa oppure sono molto ma molto diverse? A voi, cari radioascoltatori, di poter intervenire su questo argomento. Bene, allora dicevo che ora vi presenterò i due personaggi. Sono Maurizio ed Andrea. È inutile dire ormai il cognome, io li chiamo Maurizio ed Andrea. Sono i due che sono arrivati in finale su MasterChef dell'anno passato, che sono, diciamo, in lotta fino all'ultimo per vincere. Sconfitti, Davide. I due sconfitti, esatto. Dicono, beh, però insomma, vedo che siete ormai ovunque. Buongiorno. In televisione, quindi ormai siete diventati popolarissimi. Ebbene, loro sono stati giudicati, quindi il compito di giudicare poi a loro volta può essere molto divertente, vero Maurizio? Sì, assolutamente, io mi diverto un pazzo. Ho fatto una cosa con Davide e Andrea in cui giudicavamo delle persone e ti dico la verità, è divertentissimo. Giudicare, sì. Andrea. Il Mauri poi è cattivo, anche se continua a dire che in cucina non bisogna aver paura di sbagliare, ma poi è il più cattivo. Io invece sono un po' più magnanimo. Bene, ora lo vediamo, perché io vi ho dato delle ricette che sono quelle che hanno vinto. Cosa vincono? Le 12 guide del gastronauta. Addirittura vi lancio subito il prodotto per la prossima settimana per le ricette. Sarà lo zafferano. Quindi mandate le vostre ricette a gastronauta@radio24.it. Allora io prego coloro che sono arrivati, quattro che hanno vinto, a cui è stato comunicato di aver vinto, se vogliono intervenire possono benissimo intervenire. Cari radioascoltatori, anche voi potete intervenire sul tema delle acciughe o, come ho detto prima, o delle alici, quindi intervenite come volete. 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, allora cominciamo dalle ricette. Allora io comincio da Maurizio. Maurizio, sì. Che ricetta tu hai in mano? Vediamo. Io ho la ricetta di Maurizio San Sebastiano, sì. È una zuppa di acciughe. Praticamente Maurizio ha fatto una sorta di acqua pazza con le acciughe. Io trovo la zuppa molto interessante, anche se avrei osato un attimino di più sul pane, cioè magari usare un pane con una farina diversa, un pane di segale, un qualcosa che contrastasse di più. Però la trovo una ricetta molto semplice e buona. Un consiglio per Maurizio, secondo me, è non mettere mai il vino dopo aver raggiunto il pomodoro, perché intrappola un po' di acidità. Sì. Bene, Maurizio San Sebastiano, se sei in linea batti un colpo, puoi intervenire come e quando vuoi. Ma devo dire che, visto che si parla di acciughe, mettiamo un po' di allegria e magari mettiamo un personaggio che ha scritto dei versi sulle acciughe davvero davvero straordinari. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Bene, bene, io ora voglio capire da Andrea. Andrea, ma tu che rapporto hai con le acciughe? Allora, ho un bellissimo e buonissimo rapporto. Anche io ho questo vizio che chiudo quasi sempre ogni cena a casa mia con un po' di burro e acciughe su pane tostato. Era una cosa che facevo con il formaggio, che mi piace altrettanto, ma siccome purtroppo mi ha creato un po' di problemucci, ho sostituito con burro e acciughe. Quindi ho un rapporto bello. Quindi qualche piatto, Maurizio, qualche piatto a base di acciuga? Sì, secondo me una cosa interessante potrebbe essere mettere un po' di collatura d'alici, che per noi sono la stessa cosa, acciughe e alici, nella zuppetta di fave, gli dà uno sprint in più. E poi provate a impanare una bella acciuga con il pane grattugiato giapponese. Bravo Mauri, questa è una bella chicca. Bene, poi parleremo di colatura perché andremo nel luogo di produzione della colatura. Ruggero, dalla provincia di Brescia, un radioascoltatore, buongiorno. Ciao Ruggero. Buongiorno Ruggero. Buongiorno. Tu sei, dimmi Ruggero, tu sei l'autore della ricetta della bottarga col pane tostato? Esattamente. Allora guarda, io ti passo subito in bocca, come si dice, ad Andrea, perché è lui che giudicherà la tua ricetta. Buongiorno Ruggero, ciao. Buongiorno. Ciao. Allora, il tuo piatto va bene, intanto il nome è molto bello, si chiama Chiamiamola Bottarga, perché effettivamente sono degli spaghetti con un soffritto di acciughe, di alici e del tonno e del pane grattugiato, quindi fa un po' questo effetto, l'effetto bottarga. Ecco, il piatto è bello, è molto semplice. Io toglierei il tonno, se proprio, perché comunque sembra quasi secondo me il gusto è coperto poi dall'acciuga, dal soffritto che fai, quindi il tonno sembra quasi qualcosa per andare a riempire un po' il piatto. E il tonno naturale in scatola io ti consiglio sempre di utilizzarlo solo se sei a dieta. E non... avete sentito come sono agguerriti, sono maggiormente agguerriti. Scusa, degli chef che abbiamo avuto nelle altre puntate. Però io voglio lanciare un messaggio. Radioascoltatori, no, non debbono intervenire solamente coloro che hanno mandato le ricette, potete intervenire, è libero intervento, quindi non siate così, come posso dire, timidi, quindi potete intervenire, discutere, magari discutere anche su Maurizio e Andrea. Ruggero, io volevo chiederti questo, ma tu con cosa l'abbini questo piatto, con quale vino? Abitando in Francia Corta, solitamente, essendo amante dei Satin, lo abbino in bollicine di Francia Corta. Ma la bottarga resiste alle bollicine di Satin? Sì, assolutamente. Poi comunque io non apprezzando il vino rosso, sono un estimatore esclusivamente del vino bianco, del frizzante, quindi a prescindere dall'abbinamento che ci azzecchi o no, io adoro le satene, quindi lo abbino esclusivamente a quello. Peccato, perché io invece col tonno sono un grande amante, e con molti piatti di pesce, del pino nero servito molto freddo, quindi peccato, ma va bene. Posso prendere spunto così. Ma se non ti piace il vino rosso, è meglio, continua col Satin di Francia Corta, perché sicuramente sono vini davvero molto, molto importanti, e devo dire che in questo momento, anzi, sono proprio sulla cresta dell'onda. Allora Ruggero, tu hai vinto 12 guide del gastronato, ma tu nella vita cosa fai? E mi occupo di web come Maurizio, poi che ho seguito durante Masterchef, quindi penso siamo omologhi dal punto di vista dell'attività che svolgiamo. Io mi occupo di web marketing, più perfetto. O meno, copywriting, quindi penso sia quello che fate anche Maurizio, da quello sì, che ho capito. Sì, va bene, siete colleghi, ma questa passione per la cucina da dove arriva? Arriva da mio nonno inizialmente, poi da mia mamma che fondamentalmente mi ha dato lo spunto per questa ricetta, perché originariamente questo doveva essere un ripieno con moscardini e pane grattato per fare dei calamari al forno. Poi siccome ho degli amici un po' ciusi, per mutuare al nostro ex ministro del lavoro, che non apprezzano molto il pesce, quando ho deciso di utilizzare questo diciamo ragù di pesce per fare degli spaghetti, ho preferito mascherarlo con del pane tostato. Senti Ruggero, come si chiama tua madre? Stella. Va bene, allora il premio lo diamo a Stella, non lo diamo a te, perché abbiamo capito che hai copiato, insomma, hai copiato da... Era un ripieno per calamari gratinati che io ho portato su spaghetto. Ha rivisitato un piatto di sua madre. Bene, certo, mi sembra anche giusto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di ricette con le acciughe che ci sono arrivate in abbondanza, ma soprattutto parliamo anche di acciughe, di alici, parliamo di questi pesci. Ma sentiamo Flora da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno Flora. Buongiorno a lei. Prego. No, senta, volevo un chiarimento, perché parlare di acciughe, che a me piacciono moltissimo, tra parentesi, ma io ho letto su una rivista scientifica che le acciughe hanno al loro interno le acciughe, quelle sottosale, quelle che poi si puliscono, si mangiano un pane e burro, come diceva prima quella persona che è intervenuta, che parlava, ma le acciughe al loro interno hanno un germe pericoloso, perché noi ingeriamo questo germe e poi dopo nel nostro corpo si riproduce. Questo lei può spiegare qualche cosa? Certo. Siete veramente ferrati in materia, state parlando di acciughe. Mi volete levare questa curiosità per favore? Perché io non le mangio più ed ero goloso. No, guardi, ora le spiego, lei tornerà a mangiarle di sicuro. Allora, io ho fatto anche una puntata su questo. Si chiama questo verme, si chiama Anisakis, è vero, è un verme terribile. Siamo d'accordo, però oggi ci sono dei sistemi molto importanti, c'è l'abbattitore, c'è l'abbattitore che assolutamente, diciamo, se ci fosse questo germe lo fa morire, però diciamo che ci sono delle precauzioni pre anche abbattitore, che bisogna sicuramente pulire le acciughe appena pescate, quindi non credo che ci siano ancora dei personaggi, dei venditori, dei pescivendoli, dei pescatori che fanno girare questi pesci con l'anisakis interno. Quindi l'abbattitore è fondamentale. Devo dirle che se lei va a mangiare le acciughe, magari mangia le acciughe in qualche ristorante, chieda, oppure anche pesce azzurro crudo, lei dovrebbe chiedere subito se in cucina hanno o non hanno l'abbattitore, perché è previsto, e ci sono anche delle norme penali molto forti per chi non, dei provvedimenti penali per chi non le utilizza. Le dirò che a me è successo di aver mangiato per un anno in un ristorante, mangiando spesso le acciughe, non avrei mai pensato che alla mia domanda, ma spero che tu abbia l'abbattitore in cucina, mi sentissi rispondere, ma cos'è l'abbattitore? Ai. Che è quel ristorante, io non sono più tornato, ed è, dopo un anno mi è arrivato il messaggio dal ristoratore, ho comprato l'abbattitore. Bene, quindi signora, io la tranquillizzo, lei se le va a mangiare al ristorante chieda se c'è l'abbattitore, se le va ad acquistare sicuramente prenda questa precauzione e si informi su questo, e credo che così magari è tranquilla, può tornare a mangiare le sue acciughe. Bene, abbiamo con noi un personaggio, come dire, il personaggio della cucina numero uno. Buongiorno al maestro Gualtiero Marchesi. Ciao Davide, pensavo tu facessi maestro. Un altro nome. infatti stavo per fare un altro nome, poi mi sono ripreso Gualtiero. Buongiorno Gualtiero, come stai? Ciao, benissimo, e tu? Beh, abbastanza bene. Qual è il tuo rapporto con le acciughe, Gualtiero? Il mio rapporto è buonissimo, io le amo moltissimo. Ma poi tu sai che mi pare di aver sentito prima raccontare, perché questa è una cosa che viene dalla Sicilia, sai che ho una moglie siciliana, che io amo molto la colatura. Però non mi piace calda, mentre invece vedo che la fanno calda. No, per carità. Ma guarda, se continuerai ad ascoltare la trasmissione, poi mi collegherò con Cetara, dove con due ragazzi che hanno un ristorante e sono produttori di colatura vera, che me ne fanno dono di una boccetta piccola ogni anno, e devo dire che la trovo straordinaria. Però dimmi il tuo rapporto, perché mi piace. No, sapere. Io ho inventato, insomma. Un giorno mi sono trovato in mano un pacchetto di spaghetti così diritti, dico, ma perché farli tutti arrotolati? Allora mi sono fatto l'insalata di spaghetti alle acciughe scappate. Li ho chiamati così perché non ci sono le acciughe. Gli spaghetti sono cotti in un mese che mi sono fatto fare speciale, e poi li raffreddo naturalmente, perché a me piacciono freddi, e poi li condisco con la collatura appunto di acciughe, un po' di olio, pinoli, uvette, e poi il pane tostato, grattugiato sopra invece del formaggio, che altererebbe il sapore. Bene, ci hai regalato una bellissima ricetta. Rimani un po' con noi, Gualtiero. Sì, volentieri. Rimani con noi. Volentieri. Bene, sai che qui in trasmissione con me ci sono i due, diciamo che sono, loro dicono sconfitti di MasterChef dell'anno scorso, Maurizio e Andrea, ma sono due che stanno andando avanti perché vogliono imparare. Siamo andati a trovare il maestro all'Alberetta 2 mesi fa, l'abbiamo conosciuto. Assolutamente. Io ho beccato anche la bacchettata perché l'ho chiamato chef, il maestro subito, ha detto cuoco, prego. Mestiere cuoco, cuoco. Ha ragione. Bene ragazzi, abbiamo in linea diciamo chi ha fatto le ricette. Abbiamo la ricetta, dunque vediamo, Maria Cristina da Firenze, che ha fatto la ricetta di alici ceccate calabresi. A chi l'ho data in mano questa? Stiamo cercando, come se cercassimo i funghi. Non c'è Davide. Anna Maria da Trieste, scusa. Anna Maria io da Trieste. L'Anna Maria Pellegrino. Esattamente. Violi Mori con le Alici. Ecco. Ciao ecco. Anna Maria. Buongiorno a tutti. Anna Maria, devo dire che la tua ricetta mi è piaciuta particolarmente, anche perché hai usato una farina di segale mischiata a quella di grano duro e hai fatto questi bigoli che hanno una consistenza secondo me giusta per l'alice e l'ho trovata molto molto buona e anche leggendola molto interessante perché tu ad esempio hai detto fate passare l'impasto in un saldo schiacciapatate, un vecchio tritacarne perché qui si denota proprio la consistenza che vuoi dare alla pasta. Un piccolo mio consiglio è aggiungere una nota magari di un agrume che renderebbe tutto un po' più sfizioso, più profumato. Io l'ho trovata però meravigliosa. E poi Davide. Scusami se ti interrompo. Ciao Anna Maria, sono Andrea. Ciao. Io andrei ad aggiungere, secondo quello che ha detto il maestro, un po' di uvette e pinoli. E il piatto come sarebbe nella tradizione. Come la tradizione. Bene, esatto. Anna Maria Triestina, quindi che hai vinto, vincerai 12 guide appunto del Gastronauta edite dal Sole 24 Ore. La prossima settimana ci sarà lo Zafferano. Ma maestro Gualtiero, hai sentito come questi due che sono stati sconfitti, come se la cavano con le ricette? Mi sembra bene, ma però io vorrei aggiungere una cosa, posso? Prego, certo. No, vorrei dire che noi abbiamo sottovalutato sempre la pasta, continuiamo a parlarne. Ma è sempre strapazzata da un mucchio di salse, sono coperte da salse, dappertutto dove vai c'è il burro e parmigiano che le copre, oppure non è vero. E la pasta ha un suo sapore, che infatti io l'ho rappresentata facendo quattro tipi di pasta, cotti tutti e quattro nello stesso modo con un goccio d'olio appena appena, per gustare le quattro intensità, no? Le quattro masticazioni diverse. Ma è così buona la pasta di per sé, perché dobbiamo distruggerla a piacere nostro? Continuiamo a cercare la pasta buona e poi la facciamo affogare nelle salse. Ecco. Bene, allora do anch'io la mia ricetta con la colatura, perché siccome io non sono un cuoco e quindi diciamo che cerco di fare le cose molto più semplici. Beh, allora, olio, cioè bisogna, va bene, scolare la pasta, prima aver preparato olio e sull'olio mettere un cucchiaino per persona di colatura, poi mescolare appunto la pasta una volta che si è scolata e aggiungere del pane grattugiato. Questo secondo me è un piatto molto semplice che tutti possono fare avendo la colatura buona ed è veramente straordinario, caro Gualtiero. Dammi il voto. Un grandissimo sì. 7+. bene, grazie. Vedo che un SMS a proposito dell'abbattitore, che è un radioascoltatore, mi dice che servono 20 gradi. Innanzitutto, caro radioascoltatore, meno 20 gradi, ma non sono meno 20 gradi, ma secondo il regolamento, molto di più da 24 in poi, quindi ci vuole questo. Poi che non serve l'abbattitore, certo, se lei è in grado di raggiungere queste, diciamo, queste temperature, va benissimo, non c'è bisogno della posso raccontarti della una cosa? Certo, Davide? Certo. Che io credo essere stato il primo ad importare il surgelatore rapido, che porta il prodotto a 40 gradi sotto zero, per aver visto un articolo in Francia dove un prodotto abbattuto a 40 gradi poi riportato a 20 gradi stabilizzato. Tu fai un piatto, non so, un piatto qualsiasi e lo fai fresco e l'altro lo congedi, quando li riporti alla gradazione sono tutti e due uguali. Bene. Per cui l'abbattitore serve moltissimo proprio per tante cose. Sì, no, è vero, serve. Sì. Diciamo che chi ce l'ha a casa non lo usa molto, serve quando il vino bianco bisogna batterlo, quindi sicuramente si può usare anche questo sistema come sottoscritto. Bene, sentiamo Maria Cristina da Firenze, che io prima ho diciamo confuso con una vincitrice, invece ha una ricetta Maria Cristina da Firenze, vero? Maria Cristina? Sì, buongiorno. Prego. Allora, condizione fondamentale, le alici freschissime e piccole. Pronto? Sì, prego, noi le ascoltiamo. Siamo tutto orecchi. Siamo incantati. Piccole, non grandi. Si lavano bene, la testa, la lisca si leva, si aprono, si asciugano benissimo, si mettono in padella con poco olio dalla parte della pancia deve essere in su. E sale, pochissimo, peparella rossa fresca, calabrese possibilmente, aglio a pezzettini, andare pianissimo, coperto, pochissimo, cuociono in fretta, tutto a freddo si mette, all'ultimo quando sono cotte diventano di un colore leggermente più chiaro, si mette un'idea proprio di aceto, il migliore che avete, pochissimo. Aceto di vino o aceto balsamico? Io uso generalmente quello che ho, e cioè balsamico, però... Tradizionale o balsamico solo? Ma non me ne intendo tanto. Va bene, grazie, grazie a Maria Cristina da Firenze, grazie. Sentiamo Gualtiero cosa ne pensa di questa ricetta, Gualtiero. Preferisco non parlare. Bene, grazie, grazie, grazie Gualtiero. Sentiamo Mario da Modena, buongiorno Mario. Mario? Pronto Mario? Si è perso nel mare di acciughe, pronto, prego. Pronto Mario, ho acceso la radio, Davide, scusa, ho acceso la radio che stavate parlando dell'abbattitore, accertarsi che il ristoratore che ti serve le acciughe abbia l'abbattitore. Ma no, non solo per le acciughe, per tutto il pesce azzurro. Per tutto il pesce azzurro, sì, perfetto. La mia domanda è questa, in casa, ammetto che non so cosa sia l'abbattitore, sì, ma chi lo consuma in casa? È importante questo? Beh, lo metti a meno 24, se però ci dovrebbe essere una garanzia, dipende da chi hai comprato le acciughe, infatti, caro amico. Cioè, il problema è questo, se, perché potrebbero già essere abbattute da chi le hai comprate o ben pulite da chi le hai comprate. Dovrebbero, quindi, essere. Dovrebbero essere, quindi non c'è bisogno di avere l'abbattitore. L'abbattitore credo che nelle case insomma sia abbastanza raro, caro Mario da Modena. Ti ringrazio di essere intervenuto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di acciughe, di ricette, ma soprattutto anche di prodotto. Però vedo che Daniela dalla provincia di Pordenone è tanto che è in linea, non la voglio più far attendere. Buongiorno Daniela. Buongiorno a lei Davide, grazie, molto gentile. Io avrei due cosine rapide da sottolineare per il gusto. Sì. Un bel pane bianco tipo mantovana, gorgonzola dolce e filetti di acciuga con un buon friulano, che una volta si chiamava tocai, sì, direi che come aperitivo è da provare. Ma guardi, io chiedo ai miei due amici che sono qui cosa ne pensano. Lascio Andrea la risposta, che è un fan. È un piatto che mi colpisce molto perché io sono un amante sia del formaggio che dell'acciuga, no? Adesso ho spiegato che ho sostituito il formaggio a fine pasto, quindi per me è sì, assolutamente, è un grande piatto. E poi soprattutto il tocai con l'acciuga ci va a nozze, è perfetto. Bene, grazie, grazie Daniela, ci ha dato questa suggestione. Ma ora abbiamo parlato tanto di colatura, allora io vado a Cetara, vado da Gennaro Marciante dell'Acqua Pazza. Buongiorno Gennaro, perché buongiorno a tutti voi, grazie per averci chiamato. Devo dire che io uso la sua colatura. Gennaro, ma sta colatura, ma ce n'è tanta in giro, ma ne producete tanta, Cetara? Allora, ce n'è tanta, diciamo che c'è poca quella di Cetara, bisogna ben definire la cosa. Cetara è questo posto dove ogni anno produciamo, un po' tipico vedere tutti i cetaresi, ma ci sono delle piccole aziendine che adesso producono questo oro liquido, diciamo, questo estratto di acciughe. E voglio dire, c'è un po' di prodotto, il prodotto è fatto in maniera molto artigianale. Almeno quello tipico tradizionale viene fatto in questi terzigni, in questi botti, questi terzigni a punti di castagno, dove ne viene lasciato maturare per oltre 15 mesi e poi bucati, e lì ne viene fuori tutto questo prodotto. Quindi diciamo che di prodotto vero in giro di colatura from Cetara ce n'è ben poco, è così? No, diciamo che quella tipica tradizionale non ce n'è molto, è la verità, non ce n'è molto, però bisogna dire che adesso la gente ha iniziato a capire la differenza che può passare tra una buona colatura, tra la colatura tipica e quella che è, diciamo, un prodotto più commerciale, non vorrei aggiungere altro. Questa è stata un'ottima annata e bisogna dire che finalmente i pescatori sono felici perché stanno pescando bene. Stiamo salando molto bene, le acciughe sono straordinarie, sono belle grasse, è un periodo felice per noi, siamo voglio dire, tutti quanti in attività. Perfetto. Bene, Gennaro, rimani con noi, poi torneremo su alcuni argomenti. Io nel frattempo vado a Imperia, vado da Giovanni, provincia di Imperia. Buongiorno Giovanni, un radioascoltatore. Prego, Davide, buongiorno. Prego buongiorno. Giovanni. Ciao Giovanni. Allora, io ho chiamato che avevo inviato una bella ricetta, le acciughe, le alici all'abbassiano, che è una cosa fantastica. C'è da premettere che io mangio alici, acciughe a sgombro quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. Ah bene, camperà cent'anni Giovanni. Camperà cent'anni. Lo so, perché io sono siciliano di origine, le faccio in tutti i modi, in tutte le salse, faccio la pasta con le sarde, faccio diciamo alla beccafico, li faccio con l'uvette, con i pinole, con tutti i modi. Un gourmet dell'acciuga. Bene, Giovanni. La nostra ricetta è semplicissima, sì. Ve la suggerisco perché comprare le alici o acciughe, anche sardine è uguale, sì. Metterle proprio, spilettarli, metterle in padella con poco olio, aglio crudo, maggiorana tanda, un po' di peperoncino a chi piace, no? E tanto limone fresco, mettere il coprecchio, appena si asciuga il sughetto sono pronte. Bene, grazie Giovanni, vedo che Maurizio dà senso con la testa. Sì, io userei la buccia del limone, perché il limone tende a cuocerle ulteriormente, eccetera. Però Giovanni, mi sembra una buona ricetta, dai. Bene, io stavo passando la parola a un maestro delle acciughe, anche un maestro della calatura, che è Roberto Ghezzi della sua azienda Schooner, che fa il selezionatore di acciughe, gira tutto l'anno a selezionare il meglio del meglio. E nel frattempo che stavo passandogli la parola, mi è arrivata l'interrogativo che ho posto all'inizio: differenza tra acciughe e alici, caro Roberto, qual è? Buongiorno. È lì il problema, credo che sostanzialmente sia dovuto ai differenti luoghi e un fatto puramente commerciale, che io sappia, non è, essendo la famiglia la stessa identica, per cui non si può parlare, a mio parere, di differenza tra alici e acciughe. Prevalentemente il nome alici viene riservato in prevalenza agli sfilettati sott'olio. Certo. Mentre le salate, certo, vengono chiamate comunemente acciughe, ma c'è chi dice anche alici salate. Sul fresco uguale, prevale a mio parere l'addizione acciughe, ma non viene esclusa l'addizione alici. Ecco. Bene, rimani con noi Roberto, sentiamo Pierangelo da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Pierangelo. Buongiorno Davide, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare la voce fuori dal coro per quanto riguarda l'abbattitore. Io, siccome mi occupo anche di pesca come hobby, sono abituato a mangiare pesce crudo fresco, di conseguenza quando mi trovo del crudo che è stato abbattuto e che libera un po' il contenuto acquoso delle fibre, mi accorgo proprio che la qualità è molto diversa rispetto al fresco. Pierangelo, è una scelta salutistica, di sicurezza, con una scelta di gusto. Sicuramente così, diciamo, è abbastanza libera. Se uno vuole rischiare, io le posso raccontare, ma è stato raccontato in trasmissione mesi fa quando ho parlato della Nisakis, che è un notissimo chef che ha un ristorante specializzato in pesce, uno bistellato. È stato colpito dalla Nisakis. Quindi questo secondo me deve far pensare, perché credo che un minimo di precauzione, di attenzione e di conoscenza del pesce ci fosse in questo personaggio. Poi ognuno è libero ovviamente di mangiare, di fare quello che vuole, come dice giustamente lei. Il gusto, io sono convinto che varia veramente di molto, ma molto poco, perché una volta che si è raggiunta la temperatura non è che deve star lì mezza giornata, e quindi una volta raggiunta la temperatura, e oggi ci sono dei sistemi rapidissimi, come ci ha spiegato anche prima Gualtiero Marchesi, credo che le conseguenze siano veramente, veramente poche. Bene, comunque la ringrazio, perché è importante sentire anche il pensiero di chi dice no, vado per un'altra strada. Io voglio tornare a Roberto Ghezzi, perché gli voglio chiedere questo. Le acciughe del Cantabrico spagnolo sono molto più, diciamo, molto più costose, perché sicuramente sono migliori delle nostre acciughe. Mi permetto di dare questo giudizio. Ma qual è? C'è una ricetta particolare? Cos'è il mare? Cos'è la temperatura dell'acqua? Cos'è, Roberto? È stata il fermo biologico che intelligentemente hanno fatto in Spagna? Allora, diciamo che sicuramente, se facciamo riferimento dove vengono pescate le acciughe, che caratteristiche hanno, in Italia abbiamo per esempio le acciughe di Noli, che sono diverse da quelle delle Cinque Terre, e parlando di mare la vicinanza è praticamente confinanti. Per cui l'incidenza dell'ambiente e della temperatura, della profondità delle acque e tutti i componenti che compongono l'habitat fanno sì che l'acciuga con il tempo acquisti caratteristiche diverse. Nel Cantabrico abbiamo l'acciuga che è mediamente molto più grande di quella del Mediterraneo, più grassa, ha una stagione di pesca differente, perché per avere la massima qualità con la fine di aprile la pesca è finita praticamente, continua, ma vengono per la salagione, per la lavorazione, la qualità migliore si ferma in quel periodo. Per cui sicuramente il clima ha la sua l'habitat e la sua importanza. Bene, ti ringrazio, grazie a Roberto Ghezzi e a Gennaro Marciante, grazie a tutti e due. Sentiamo Giuseppe da Prato, radioascoltatore. Buongiorno. Prego. Allora, la mia ricetta è così: si fa saltare dell'olio con l'aglio, e poi quando l'aglio è biondo si leva e ci si mette un po' di capperi e qualche oliva verde salata tritata. A olio caldo si spegne e si mette dentro l'acciuga spilettata, l'acciuga salata ovviamente, e un po' di induria di spillinga però. E poi si mette a cuocere della pasta che si trova in Calabria, si chiama struncatura. È una pasta di grano. Non è facile trovare la struncatura, caro radioascoltatore, perché la struncatura veramente un tempo era clandestina, ora si trova. caro amico, conosco molto bene la struncatura, proprio con le alici e la mollica di pane tostata. Sì. È la mollica di pane tostata. C'è un ristorante a Palmi, c'è un ristorante a Palmi che si chiama De Gustibus che fa questo grande piatto. Bene, comunque la ringrazio, però Giuseppe le do un consiglio: se va a Bologna c'è un ristorante che fa le acciughe con il gelato di anduia. Questo è interessante, mi ci devi portare, Davide? Beh, sicuramente, perché molti rimarranno perplessi. Bene, Scaccomatto a Bologna, lo saluto se sei in ascolto. Beh, devo dire che è veramente straordinario. Devo passare la linea alla regia. Purtroppo Ilaria Liberatore, che è una delle vincitrici tra le ricette con gli scrigni di Peppe, non è intervenuta, non comunque, pervenuta. Però diciamo che sicuramente poi magari la commentiamo un secondo questa ricetta. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, siamo giunti in finale. Io rifaccio un appello: Ilaria Liberatore, che hai vinto, fatti viva se sei in ascolto. Però nel frattempo abbiamo sentito che c'è il nostro Ghezzi che ha parlato di differenza sulle alici tra il mare di Noli e il mare delle Cinque Terre, che sono veramente molto molto contigue. Bene, io ultimamente ho mangiato delle alici fritte a Noli da Giuseppe Ricchebuono del ristorante Vescovado, davvero straordinario. Ricchebuono, ma erano le alici del Golfo di Noli o erano delle Cinque Terre? Buongiorno Davide. erano nel nostro golfo, del golfo di Noli. Ecco, ma c'è veramente questa sottigliezza, questa differenza tra mari così contigui? Ma direi di sì, guardi, non solamente nell'acciuga ma in altri tipi di pesce, che soprattutto è dato dalla differenza del fondale e anche dalla temperatura dell'acqua. E diciamo che quelle di Noli, insomma, per noi sono un prodotto meraviglioso. E pescate in giornate e comunque consumate in giornate hanno delle caratteristiche e delle bellezze organolettiche eccezionali. Senta, ma il segreto è la freschezza, appunto, di una frittura di alici? Assolutamente, assolutamente. Come dicevo, se fatte in giornata dal momento in cui vengono pescate, poi fritte comunque nella giornata, fritte ovviamente nella maniera giusta, con l'olio, noi usiamo l'olio extravergine taggiasca, dei nostri oliveti, quindi insomma la fragranza anche dell'olio è molto importante, ma soprattutto è importante la freschezza del prodotto, perché l'alice ha comunque una deperibilità molto, molto veloce, quindi consumate in giornata direi che è il massimo. Bene, devo dire, rimanga con noi, che buono, sì. ho un SMS molto importante per i radioascoltatori, perché abbiamo affrontato il problema appunto dell'abbattitore e molti la prendono molto alla leggera. Questo radioascoltatore mi scrive: l'anisakis me lo sono preso per fortuna come orticaria acuta qualche anno fa con delle acciughe sottosale fatte da un pescatore di Catania. Bene, nessuno vuole criminalizzare nessuno, però l'attenzione credo debba essere sempre presente. E allora io lo chiedo a un pescatore di un posto meraviglioso come quello di Monterosso, che ha avuto tanti problemi, addirittura una delle cooperative, diciamo, che salavano in quel bel posto non funziona più per motivi appunto motivi economici che sono avvenuti in quell'area, e appunto dicevo che erano le ragazze del parco, voglio anche ricordarle. E allora io chiedo a Beppe Martelli, che è della cooperativa Piccola Pesca di Monterosso, se bisogna fare molta attenzione con non solo con le acciughe ma con tutto il pesce crudo. Buongiorno Martelli. Buongiorno a voi. Lei cosa ne pensa? Bisogna fare attenzione, bisogna batterlo, bisogna diciamo pulirlo subito appena pescato il pesce di solito? Guardi, la prima cosa da dire al momento è che il pesce deve essere stabile per 100. Il pesce... Forse in mare, Martelli. Proviamo a richiamarlo, e quindi mi sembra di capire che è ancora in mare. Proviamo a richiamarlo se troviamo una linea migliore. Nel frattempo sentiamo Alfonso da Genova. Buongiorno Alfonso. Alfonso, buongiorno. Vabbè, sentiamo Franco da Napoli. Buongiorno Franco. Sì, salve, buongiorno. Prego. Ecco. Il mio contributo è per la ricetta, che chiaramente è mutuato da mia madre. Ed è un po' la variante a quella ricetta di prima, cioè olio, aglio, capperi, olive e pan grattato. Ma la variante è metterla nel forno e far gratinare la parte superficiale, in modo da ottenere una bruscatura, come diciamo noi. Ma infatti una delle cose importanti secondo me dell'acciuga è dargli quel contrasto con il croccante. Infatti il pane grattugiato, io consigliavo a Davide di fare una cialdina di pecorino e sbriciolarla sopra l'acciuga, ma perché l'acciuga chiama il contrasto proprio palatale del croccante. Beh, il pane abbrustolito, burro e acciuga, e quindi acciuga deve essere abbrustolita. Usare farine differenti nella pasta. Sicuramente. Sentiamo un altro radioascoltatore mentre cerchiamo di riprendere il nostro pescatore. Aurelio da Vicenza, buongiorno Aurelio. Buongiorno, chiedevo se potete dirmi la gradazione migliore da tenere per carne e pesce a casa per il freezer. Ma guardi, la carne non lo so, il pesce, come le dicevo, per quanto riguarda la sicurezza, però sto parlando ancora di acciughe e di pesce azzurro, dovrebbe essere arrivare a meno 24, però per il resto non lo so, non è che c'è una temperatura ideale per un normale freezer per carne e pesce. Ma Davide, la cosa essenziale è dove vai a prendere pesce, certo. E carne, cioè nel senso, se lo devono abbattere loro, noi non abbiamo i mezzi, certo, la battitura in casa, quindi come diceva all'inizio lui è la fonte, quindi verificate dalle fonti e avrete un prodotto perfetto. Beh, sempre lì là. Vediamo se abbiamo ripescato il nostro pescatore, forse sì, lo abbiamo in linea. Allora ritorniamo a Monterosso. Buongiorno Beppe Martelli, buongiorno. Buongiorno, vi sento in modo molto debole. Beh, ma buongiorno. Io cercherò di urlare. Voglio chiederle questo: a Monterosso ha avuto dei grossi problemi l'anno scorso. Diciamo, sono passate quest'anno, diciamo, le acciughe tra maggio e giugno? No, non ci sono state le acciughe belle da salare davanti al nostro mare, ma i problemi che ci sono stati l'anno scorso, mi spiace, ma non riguardano in modo assoluto i pescatori. Ho capito. Riguardavano la cooperativa di Salagione del Parco, certo, che segnatamente era una cosa che non aveva niente a che fare col mondo della pesca locale. Ecco, la pesca locale invece mi dice quest'anno, quindi le acciughe non sono, sono passate poche, insomma. La pesca locale non è in grado di seguire i pesci quando sono lontani da noi, e addirittura in fase di dismissione dell'attività della pesca dell'acciuga, perché solo di acciuga non possiamo vivere. Certo. Quindi le acciughe vengono sempre da fuori in questo paese. Le tre barchette di Monterosso non sono in pesca di acciughe, non potendo esercitare pesche alternative per via della presenza del parco. Sarebbe come chiedere ad uno che fa il pane di fare il pane 30 giorni l'anno, chiedere di continuare la pesca all'acciuga per noi, ha capito? Ho capito benissimo, quindi i problemi ci sono. Senta, voi cosa pescate quando appunto non ci sono le acciughe durante l'anno? Sono 3 anni che non ci sono più pescatori di acciuga in questo paese. Sto parlando delle barche piccole di Monterosso, si badi bene, perché le barche grosse possono andare dappertutto, ma naturalmente difficile è garantire la presenza di pesce di Monterosso quando puoi andare dappertutto, perché dargli nome diventa estremamente condizionante. Insomma, alcune barche pescano fuori i palamiti e facciamo reti d'apposta, ma non siamo riusciti a far intendere la nostra voce del nostro grande disagio dalla nascita del parco, e purtroppo quando non si riesce a farci sentire i risultati sono questi: la nostra pesca sta morendo. Ecco la storia delle acciughe di Monterosso, così abbiamo chiuso il quadro, mi spiace. No, diciamo che è molto interessante quello che lei ha detto, speriamo che qualcuno raccolga un po' questo grido di allarme. Beppe Martelli, io la ringrazio, grazie del suo intervento così anche accorato. Bene, siamo arrivati quasi in fondo alla nostra trasmissione, allora io ricordo la prossima settimana l'ingrediente è lo zafferano, quindi mandate le ricette con, diciamo, lo zafferano incluso dentro le ricette, utilizzato in queste ricette, a gastronauta@radio24.it. Vincerete i 4 che vengono scelti, 12, le 12 guide del gastronauta del appunto edite dalla Sole 24 Ore. A me non resta che ringraziare Maurizio e Andrea. Grazie a te Davide. Ciao Davide, invitato. Grazie a te. Bene, e io vi do appuntamento domani durante il riposo del guerriero con appunto questo mio appuntamento alle 11:40, in cui darò alcune suggestioni, ristoranti, prodotti, vini, oli e tutto quello che è gastronomia. Un caro saluto e un buon weekend a tutti da Davide Paolini.